Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Vi mostrerò, signori, che per 2 anni Pickwick continuò ad abitare costantemente e senza interruzioni o sospensioni nella casa della signora Bardell. Vi mostrerò che la signora Bardell durante tutto questo tempo vegliò su di lui, si preoccupò delle sue comodità, cucinò i suoi pasti, sorvegliò la sua biancheria quando veniva mandata a lavare fuori di casa, la rammendò, la fece asciugare, la stirò quando la lavandaia veniva a casa e in breve godette della sua fiducia e confidenza più piena. Vi mostrerò che in diverse occasioni egli diede 0.5 penny e in qualche occasione perfino 6 pence al bambino. Vi dimostrerò, signori, che circa 1 anno fa Pickwick incominciò improvvisamente ad assentarsi da casa per lunghi intervalli, come se avesse intenzione di staccarsi a poco dalla mia cliente. Ma vi farò anche vedere che a quel tempo la sua risoluzione non era abbastanza forte, o che i suoi migliori sentimenti, seppure ne ha, lo vinsero, o che il fascino e le perfezioni della mia cliente ebbero il sopravvento sulle sue intenzioni indegne di un uomo. E questo farò provandovi che in una occasione, ritornando dalla campagna, le offrì chiaramente e formalmente di sposarla, premunendosi tuttavia con cura particolare dalla presenza di eventuali testimoni al loro solenne contratto, e sono in grado di dimostrarvi sulla testimonianza di 3 dei suoi stessi amici, testimoni assai riluttanti, signori, testimoni assai riluttanti, che proprio quella mattina egli fu da loro scoperto mentre teneva la querelante fra le braccia e calmava la sua agitazione con carezze e lusinghe. Questa parte della ringa dell'illustre avvocato fece visibilmente impressione sull'uditorio. Ma basta di ciò, signori, disse l'avvocato Mr. Buzzfuzz. È difficile sorridere quando fa male il cuore, e lo scherzo è amaro quando vibrano le corde più profonde della pietà. Le speranze e i progetti della mia cliente sono crollati, e non è una figura retorica dire che con essi anche la sua attività è terminata. Il cartello non è più alla finestra, ma dentro non ci sono inquilini. Degnissimi signori soli passano e ripassano, ma non c'è per essi l'invito a chiedere dentro o fuori. Tutto è tristezza e silenzio nella casa. Anche la voce del bambino si tace. Non c'è più posto per i giochi infantili quando la mamma piange. Ma Pickwick, signori! Pickwick, lo spietato distruttore di questa oasi domestica nel deserto di Goswell Street, Pickwick, che ha inaridito la sorgente e sparso le ceneri sul prato, Pickwick, solleva ancora la testa con sfacciata protervia e contempla senza un sospiro la rovina che ha compiuto. I danni, signori, il pagamento dei danni, questa è la sola punizione che potete infliggergli, il solo risarcimento che potete garantire alla mia cliente. E per avere questo risarcimento, ella qui si rivolge a una illuminata, magnanima, retta, coscienziosa, spassionata, sensibile e pensosa giuria di concittadini del nostro civilissimo paese. Con questo bel pistolotto finale, l'avvocato Mr. Buzzfuzz si sedette. E il giudice Mr. Sterling si svegliò. Nathaniel Winkle, disse Mr. Skimping. Presente, rispose una debole voce. Mr. Winkle entrò nel banco dei testimoni e, dopo aver prestato giuramento, si inchinò al giudice con molta deferenza. Non guardate me, signore, disse aspramente il giudice per tutta risposta. Guardate la giuria. Mr. Winkle obbedì e guardò verso il posto dove gli sembrava più probabile che fosse la giuria, perché nello stato di confusione mentale in cui si trovava non c'era nemmeno da pensare che potesse vederla. Dunque, Mr. Winkle, disse Mr. Skimping, vi prego di fare attenzione a quello che vi dico e vi raccomando nel vostro stesso interesse di ricordare ciò che vi ha detto la corte e di essere preciso. Credo che voi siate un intimo amico di Pickwick, il convenuto, vero? E ho conosciuto Mr. Pickwick, per quanto ricordo, in questo momento circa nel... Prego, Mr. Winkle, non eludete la domanda. Siete o non siete un intimo amico del convenuto? E stavo appunto per dire che... Volete o non volete rispondere alla mia domanda, signore? Se non risponderete alla domanda, sarete arrestato, signore, intervenne il piccolo giudice guardando al di sopra del suo libro di appunti. Dunque, signore, disse Mr. Skimping, decidetevi, prego, sì o no? Eh sì, lo sono, rispose Mr. Winkle. Sì, lo siete. Perché non potevate dirlo subito, signore? E forse conoscete anche la querelante, non è vero, Mr. Winkle? Non la conosco, l'ho vista. Ah, non la conoscete, ma l'avete vista. Allora abbiate la bontà di spiegare ai signori della giuria che cosa intendete dire con questo, Mr. Winkle. Voglio dire che non sono in confidenza con lei, ma che l'ho vista quando andavo da Mr. Pickwick in Goswell Street. Quante volte l'avete vista, signore? Quante volte? Sì, Mr. Winkle, quante? Posso ripetervi la domanda una dozzina di volte, se è questo che volete, signore. E l'uomo di dottrina, con fermo e severo cipiglio, mise le mani sui fianchi e sorrise allusivamente alla giuria. A questo punto nacque il solito edificante battibecco. Mr. Winkle disse che gli era assolutamente impossibile dire quante volte aveva visto la signora Bardell. Allora gli fu chiesto se l'aveva vista 20 volte, al che egli rispose, e certo, anche di più. Allora gli fu chiesto se l'aveva vista 100 volte, se poteva giurare di averla vista più di 50, se poteva dire di averla vista almeno 75 volte, e così via, arrivando alla soddisfacente conclusione che gli conveniva di essere più preciso e di badare a quello che faceva. Ridotto in questo modo il test nella voluta condizione di accasciamento e di nervosa perplessità, l'interrogatorio proseguì come segue. Mr. Winkle, vi ricordate di essere andato dal convenuto Pickwick nel suo alloggio in casa della querelante in Goswell Street una certa mattina dello scorso mese di luglio? Sì. E in quell'occasione eravate con un amico di nome Tupman e con uno di nome Snodgrass? Sì, ero con loro. Si trovano qui? Sì, rispose Mr. Winkle guardando ansiosamente nella direzione in cui si trovavano i suoi amici. Prego, fate attenzione a me, Mr. Winkle, e lasciate stare i vostri amici, disse Mr. Skimping con un altro sguardo espressivo alla giuria. Dunque, signore, dite ai giurati che cosa avete visto entrando nella camera del convenuto quella certa mattina. Coraggio, toglietevi questo peso, tanto dovete dirlo prima o poi. Il convenuto Mr. Pickwick teneva la querelante fra le braccia, sorreggendola con le mani per la vita, rispose Mr. Winkle con comprensibile esitazione, e la querelante sembrava priva di sensi. E non avete udito dire nulla dal convenuto? Gli ho sentito dire alla signora Bardell su da brava, e l'ho udito pregarla di rientrare in sé, di considerare in che situazione si sarebbe trovata se fosse sopraggiunto qualcuno o qualcosa del genere. Le cose non si erano messe nel modo più felice per Mr. Pickwick fino a quel momento, e ogni nuovo sospetto gettato su di lui poteva essere fatale alla sua causa. Ma più mai Tracy Tupman e Augustus Snodgrass furono chiamati a turno al banco. Entrambi confermarono la testimonianza del loro infelice amico ed entrambi furono portati al culmine della disperazione da un interrogatorio esasperante. Susanna Sanders fu poi chiamata e interrogata dall'avvocato Buzzfuss e controinterrogata dall'avvocato Snobbing. Aveva sempre detto e creduto che Pickwick volesse sposare la signora Bardell. Sapeva che il fidanzamento della signora Bardell con Pickwick era il normale argomento di conversazione del vicinato dopo lo svenimento del luglio scorso. Le era stato confermato anche dalla signora Mudberry, stiratrice, e dalla signora Bunkin, inamidatrice, ma non vedeva nell'aula né l'una né l'altra. Aveva udito Pickwick chiedere al ragazzino se gli sarebbe piaciuto avere un altro papà. Non sapeva se a quell'epoca ci fosse qualcosa fra la signora Bardell e il fornaio, ma sapeva benissimo che il fornaio allora era scapolo e ora era sposato. Non poteva giurare che la signora Bardell non fosse innamoratissima del fornaio, ma riteneva che il fornaio non fosse innamoratissimo della signora Bardell, altrimenti non avrebbe sposata un'altra. Credeva che la signora Bardell fosse svenuta quella mattina di luglio perché Pickwick le aveva chiesto di fissare il giorno delle nozze. Lei stessa, la teste, era svenuta lunga distesa per terra quando il signor Sanders le aveva chiesto di fissare il giorno delle nozze ed era convinta che ogni vera signora avrebbe fatto lo stesso in circostanze analoghe. Interrogata dal giudice, rispose che durante il periodo del suo fidanzamento con Mr. Sanders aveva ricevuto lettere amorose come ogni altra signora. Nel corso della loro corrispondenza, Mr. Sanders l'aveva spesso chiamata oca, ma in nessun caso braciola e nemmeno salsa di pomodoro. A lui piacevano moltissimo le oche. Forse se gli fossero piaciute altrettanto le braciole e la salsa di pomodoro, l'avrebbe chiamata così, come vezzeggiativo. L'avvocato Buzzfuss sorse allora con maggior prosopopea, se possibile, di quanta non avesse dimostrato in precedenza, e tuonò: «Fate entrare Samuel Weller!» Ma non fu necessario far entrare Samuel Weller, perché Samuel Weller entrò vivamente da solo nel banco dei testimoni, nello stesso momento in cui il suo nome fu pronunciato. E posando il cappello per terra e le braccia sulla ringhiera, diede un rapido sguardo alla tribuna degli avvocati e prese una visione generale della corte con l'aria più allegra e più briosa del mondo. «Come vi chiamate, signore?» chiese il giudice. «Sam Weller, vostro onore!» rispose questi. «Dunque, Mr. Weller?» disse l'avvocato Buzzfuss. «Dunque, signore!» rispose Sam. «Credo che voi siate al servizio di Mr. Pickwick convenuto in questa causa. Parlate dunque, vi prego, Mr. Weller.» «È quello che ho intenzione di fare», rispose Sam. «Sono al servizio di questo signore ed è un ottimo servizio.» «Poco da fare e molto da prendere, immagino», disse l'avvocato Buzzfuzz con tono scherzoso. Oh, da prendere ce n'è proprio abbastanza, come disse il soldato quando lo condannarono a 350 frustate, rispose Sam. Non dovete dirci cosa disse il soldato o qualsiasi altro, intervenne il giudice. Non c'entra con la testimonianza. Benissimo, vostro onore, rispose Sam. Vi ricordate che sia accaduto qualcosa di speciale il mattino in cui foste assunto dal convenuto Mr. Weller? Disse l'avvocato Buzzfuzz. Sì, signore, rispose Sam. Abbiate la bontà di raccontarlo alla giuria. Ebbi un autentico vestito nuovo di panno quella mattina, signori della giuria, disse Sam. E questa fu una cosa davvero speciale e insolita per me a quel tempo. Seguì una risata generale. E il piccolo giudice, guardando con volto rabbioso al di sopra del tavolo, disse: Vi consiglio di fare attenzione, signore. Così mi disse anche Mr. Pickwick quella volta, vostro onore, rispose Sam. E io feci molta attenzione a quell'abito di panno, molta attenzione, vostro onore. Il giudice guardò severamente Sam per 2 minuti buoni, ma il volto di Sam rimase così perfettamente calmo e sereno che il giudice non disse nulla e fece cenno all'avvocato Buzzfuzz di proseguire. intendete dire, Mr. Weller?» disse l'avvocato Buzzfuzz, incrociando enfaticamente le braccia e girandosi a metà verso la giuria, come per assicurarla che avrebbe fatto scontare al teste la sua impertinenza. «Intendete dire con questo, Mr. Weller, che non avete visto nulla dello svenimento della querelante fra le braccia del convenuto, descritto ora dagli altri testimoni?» «No, certo», rispose Sam. «Rimasi nel corridoio finché non fui chiamato, e quando entrai la vecchia signora non c'era più.» «Ora fate attenzione, Mr. Weller», disse l'avvocato Buzzfuzz, intingendo una gran penna nel calamaio che aveva davanti, per spaventare Sam, facendogli vedere che avrebbe preso nota della sua risposta. «Eravate nel corridoio, eppure non avete visto nulla di ciò che accadeva. Non avete un paio d'occhi, Mr. Weller?» «Eh sì, ho un paio d'occhi», rispose Sam. «Questo è il punto. Se fossero stati un paio di microscopi a vapore, ultrapotenti, brevettati per ingrandire di 2 milioni di volte, sarei riuscito forse a vedere attraverso una rampa di scale e una porta di legno. Ma trattandosi soltanto di occhi, voi capite, la mia visuale è limitata.» A questa risposta, che venne fuori senza il più piccolo segno di irritazione e con la più completa semplicità e serenità di modi, il pubblico ridacchiò. Il piccolo giudice sorrise e l'avvocato Buzzfuzz prese un aspetto singolarmente scemo. Dopo essersi consultato brevemente con Dodson e Fogg, l'illustre avvocato si rivolse nuovamente a Sam e disse, compiendo uno sforzo penoso per nascondere la sua contrarietà: «Ora, Mr. Weller, vi interrogherò su un altro punto, se non mi dispiace.» «Ma se non dispiace a voi, signore», ribatté Sam con la massima giocondità. «Ricordate di essere andato a casa della signora Bardell una sera dello scorso novembre?» «Oh sì, benissimo.» «Ah, ve ne ricordate, Mr. Weller», disse l'avvocato Buzzfuzz rianimandosi. «Ero certo che alla fine saremmo approdati a qualcosa.» «E ne ero quasi certo anch'io, signore», rispose Sam, e il pubblico ridacchiò di nuovo. «Bene, immagino che siate andato là per fare 4 chiacchiere su questa causa, non è vero, Mr. Weller?» disse l'avvocato Buzzfuzz, dando un'occhiata significativa alla giuria. «E sono andato a pagare la pigione.» «Ma 4 chiacchiere sulla causa le abbiamo fatte», rispose Sam. «Ma 4 chiacchiere sulla causa le avete fatte?» disse l'avvocato Buzzfuzz, illuminandosi al presentimento di qualche importante scoperta. «E che cosa diceste della causa? Volete avere la bontà di raccontarcelo, Mr. Weller?» «Col più grande piacere del mondo, signore», rispose Sam. «Dopo alcune osservazioni di poca importanza fatte dalle 2 virtuose donne che sono state interrogate qui oggi, le signore entrarono in uno stato di grandissima ammirazione per la nobile condotta di Dodson e Fogg. Quei 2 signori che sono là, seduti vicino a voi.» Queste parole naturalmente attrassero l'attenzione di tutti su Dodson e Fogg, che presero l'aria più virtuosa possibile. «Gli avvocati della querelante», disse l'avvocato Buzzfuzz. «Bene, fecero dunque le lodi della nobile condotta dei signori Dodson e Fogg, avvocati della querelante, non è vero?» «Eh sì», rispose Sam. «Dissero che era stato molto generoso da parte loro assumersi il patrocinio della signora Bardell per speculazione, e non farle pagare nemmeno le spese se potevano tirarle fuori da Mr. Pickwick.» A questa inaspettata risposta il pubblico soffocò le risate, e Dodson e Fogg, rossi come il fuoco, si chinarono verso l'avvocato Buzzfuzz e gli sussurrarono frettolosamente qualcosa all'orecchio. «Giustissimo!» disse l'avvocato Buzzfuzz ad alta voce, con calma forzata. «È perfettamente inutile, vostro onore, cercare di ottenere qualche indizio dall'ottusa stupidità di questo testimone. Non voglio annoiare la corte facendogli altre domande. Potete andare.» Bye. abbraccia il mate che ho un nome che è musica la da la la la la la. L'arca è musica, oggi di là se cadere, la dritta la la la la la la. Piero Baldini ha letto Il Circolo Pickwick di Charles Dickens. Riduzione di Carlo Talini. Regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.